Focus Economia con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi ci sarò io, domani torna Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? Beh, alcuni argomenti sono quasi obbligati, importanti ma quasi obbligati. Innanzitutto il rapporto del Centro Studi di Confindustria, soprattutto per il dato che consegna sulla crescita dell'Italia nel 2014. Secondo Confindustria la crescita sarà dello 0,2%, quindi una drastica revisione al ribasso dello 0,7% precedente e che si confronta con una previsione del governo che è dello 0,8%, e su questa previsione del governo naturalmente si basano le mosse di politica economica dell'esecutivo stesso. Nonostante ciò, Confindustria dice che non c'è bisogno di una manovra correttiva, non è necessaria. Ne parleremo col direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, come sempre facciamo in queste occasioni. In tutto ciò si sta svolgendo, come sapete, come anche i giornali radio vi hanno raccontato, il vertice europeo a Ypres in Belgio, meglio svolgendo, si sta aprendo, si stanno chiudendo in questi minuti le riunioni dei due principali partiti, il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo. Naturalmente quello su cui ci si sta tentando di accordare è un nome per la presidenza della Commissione. Il nome sembra essere quello di Jean-Claude Juncker, da dire che anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato pochi istanti fa, ha detto c'è un ok dal Partito Socialista Europeo, ma solo con un documento che indichi chiaramente dove vuole andare l'Europa. Lo stesso Renzi ha detto, insomma, che si sta andando nella direzione gradita all'Italia. Vedremo, cercheremo di capire anche dagli inviati del Sole 24 Ore che si trovano sul posto se effettivamente è così oppure no. Parleremo anche di scuola. È un argomento che ci capita, a dire la verità, di trattare piuttosto di rado. Scuola e formazione. Questa mattina è stato presentato un rapporto del Censis proprio su scuola e formazione, dal quale emerge che la scuola è percepita come incapace di attivare il cosiddetto ascensore sociale, cioè promuovere il merito delle persone. Viene considerata addirittura inutile. Solo il 16,4% di chi ha studiato ha fatto un salto di qualità rispetto alla condizione della sua famiglia. Questo naturalmente ha a che fare, e questo è ovvio, anche con la crisi, ma non ha a che fare solamente con quello. Ricordiamo che c'era un rapporto proprio dello stesso Centro Studi di Confindustria, tra l'altro, diffuso in marzo, secondo il quale l'aumento in 10 anni del grado di istruzione italiano a livello dei paesi più avanzati innalzerebbe il PIL fino al 15% in termini reali, con un guadagno di 3.900 euro per abitante. Quindi stiamo parlando naturalmente di ricchezza e stiamo parlando, consentitelo, anche dei nostri figli. Come ovvio parleremo di mercati, mercati che sono negativi, anche se è stata una giornata nella quale si è oscillato. I dati americani arrivati oggi, che sono quelli sui sussidi di disoccupazione e anche sulle vendite, sono, come si dice, in chiaroscuro. Quindi la borsa prima era in attesa ed era lievissimamente negativa, poi è arrivata a perdere uno 0,7-0,8%, adesso Milano cede lo 0,3% sul FTSE MIB, lo 0,24% sul FTSE All Share, va un po' peggio Parigi, meno 0,4%, Francoforte meno 0,6% e Londra invece va lievemente meglio, meno 0,03%, ma come vedete non ci sono grossi movimenti. C'è Ferragamo che guadagna il 3,4%, Mediaset il 2,23%, qua conta l'asta sui diritti TV, stanno uscendo della serie A, qua stanno uscendo in questi minuti delle indiscrezioni. L'accordo prevederebbe l'assegnazione del pacchetto del totale delle partite di serie A a Sky per il satellite, a Mediaset andrebbero le partite di 8 big per il digitale terrestre, per un totale pagato alla Lega di 945 milioni di euro. Vedremo se avremo spazio anche per approfondire questo argomento. Questi due titoli in evidenza insieme a Saipem più 1,37, Exor più 1,35, Intesa San Paolo più 1,05, in fondo al listino UbiBanca c'è del 2,5%, ST Microelectronics il 2,35%, Banco Popolare il 2,02%, Fiat l'1,99%, la Popolare di Milano l'1,9%, Unicredit l'1,7%, con l'euro che quota 1,3594 contro dollaro. Le notizie in breve di oggi. Vedo che già scrivete, quindi quasi non serve dare il numero per gli sms. Il contatto è il 349-238-6666. Io da qua non riesco a leggere la pagina su Facebook di Focus Economia, però se volete mi potete scrivere su Twitter, se siete in rete mi trovate Simone Spezia. Iniziamo come sempre dalle materie prime. In calo di mezzo punto percentuale, 1315 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo un calo dell'1,09% sul WTI, quello quotato a New York, con consegna d'agosto a 105,3 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, siamo a 113,3 dollari al barile. Del vertice europeo vi abbiamo detto, appunto, poi ci torneremo, perché il tema continua ad essere quello della flessibilità del patto di stabilità. Quanto sia apparente, quanto sia un gioco delle parti questa sorta di scontro che abbiamo visto in Germania negli ultimi giorni tra la Merkel, che fa una mezza apertura, e Weidmann, il presidente della Bundesbank, e il ministro delle finanze tedesco Schäuble, che invece chiudono su eventuali elementi di flessibilità. Stamattina il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, che è tra l'altro del Partito Socialista Europeo, ha detto: senza un po' di flessibilità Schröder non ce l'avrebbe fatta a fare le riforme che ha fatto e non saremmo al punto nel quale siamo. Approfondiremo più avanti. Intanto c'è un'altra buona notizia dai titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato tutti e 7 miliardi e mezzo di botta a 6 mesi, tassi al minimo storico 0,309% dal 0,492 di maggio. E domanda in lieve crescita. Ci sono alcuni dati dell'Istat interessanti, perché seppur dati demografici danno ancora qualche segnale della crisi. Nel 2013, per il quinto anno consecutivo, sono calate le nascite in Italia. È stato toccato il minimo storico, 514.000 nuovi nati, l'80% da donne italiane, il 20% da straniere. Scendono anche le migrazioni dall'estero, gli arrivi per così dire a 307.000, pari al 5,1 per mille contro le oltre 350.000 del 2012. E aumentano le emigrazioni, 126.000 se ne sono andati all'estero, hanno cambiato paese, contro i 106.000 dell'anno precedente. Nel 2013, destinazione favorita dagli italiani, Regno Unito, 13.000 trasferimenti, e poi la mitica Germania, 11.600. Bene, della sfiducia nella scuola abbiamo detto, questione che si collega abbastanza anche a quello che stiamo raccontando. Da segnalare che tra l'altro negli atenei stranieri negli ultimi 4 anni c'è stato un più 51% di iscrizioni di italiani, questo a dare un ulteriore segnale. Parla la Corte dei Conti oggi Nel 2013 la pressione fiscale, dice Enrica La Terza, che è presidente del coordinamento delle sezioni riunite, è diminuita di 0,2 punti. Quindi lo 0,2%, ma a questa non si è accompagnata una redistribuzione del carico tributario a favore di redditi da lavoro e impresa. Dice il procuratore generale della Corte dei Conti, Salvatore Nottola, forse un filino apocalittico, però la frase è questa, che la corruzione può attecchire ovunque, nessun organismo e nessuna istituzione possono ritenersene indenni e nessuna istituzione che abbia competenze pubbliche può ritenersi scevra di responsabilità di fronte al suo dilagare. Troppe deroghe per i controlli per quanto riguarda Expo, aggiunge la Corte dei Conti, mentre il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone ha istituito l'unità operativa speciale per Expo. E dice, sul passato non sono in grado di esprimermi. Stiamo facendo un'analisi dei contratti segnalati nella relazione dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici, che tra l'altro sarà assorbita dall'autorità di Cantone tra poco, e su questi abbiamo chiesto spiegazioni ad Expo. Molti di questi appalti non erano chiari, era poco comprensibile il livello di trasparenza. In alcuni casi non si capivano gli importi o come venivano affidati. Naturalmente non è detto necessariamente che questo nasconda dei reati, insomma, questo non lo dice Cantone, lo aggiungo io. L'ultima notizia che vi diamo riguarda gli esodati, parla Giuliano Poletti, il ministro del lavoro, che propone, dice, proponiamo un allungamento di un anno per le tutele. I nuovi salvaguardati sono 32.000, aggiunge Poletti. Allora, veniamo al primo tema di questa giornata, che è naturalmente il rapporto del Centro Studi di Confindustria, o meglio, le nuove previsioni del Centro Studi di Confindustria. Ci sono state anche delle dichiarazioni del governo su questo, ci arriveremo tra un attimo. Partirei dal dato che sicuramente colpisce di più, ed è questo taglio drastico delle previsioni di crescita per il 2014. Si prevede un più 0,2% contro un più 0,7% previsto a dicembre. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Buonasera, ciao Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Simone. Allora, come mai questo taglio così netto, insomma, di mezzo punto percentuale? Beh, la realtà esiste, bisogna tenerne conto, è semplicemente questo. Partiamo da un primo trimestre dove l'acquisito, cioè quello che accadrebbe al PIL nella media del 2014, se non ci fosse più nessun tipo di variazione, né positiva né negativa, è meno 0,2. E quindi diciamo più 0,2 significa in realtà che noi pensiamo ci siano degli incrementi già nel secondo trimestre. Ripeto, è un dato che viene dalla constatazione di quello che è accaduto, più che una vera e propria previsione. La previsione riguarda quello che sta accadendo in questo trimestre e quello che accadrà nei prossimi, dove noi mettiamo un 0,3 di aumento più altri 0,2 poi a salire nell'anno prossimo. Dobbiamo fare i conti. Io vorrei capire cosa scontiamo davvero in tutto questo, cioè quali sono gli elementi, al di là dei soliti classici che conosciamo, no? Le carenze di competitività e di produttività che abbiamo ormai, no? Accumulate da anni, che cosa stiamo scontando in questa prima fase dell'anno e che cosa scontiamo nel 2014? In realtà quello che scontiamo già dalla metà dell'anno scorso, quando il PIL ha finito di cadere in modo così forte e continuativo ed è cominciata una fase di stagnazione e non di recupero, sono le code velenose lunghe della crisi più violenta che il Paese ha subito e diciamo in un certo qual modo si è anche autoprocurato, non affrontando per tempo una serie di nodi allo sviluppo, che ha portato appunto a perdere 9 punti di PIL, 10,8 punti percentuali di reddito pro capite, ha aumentato la disoccupazione raddoppiando a 3,2 milioni di persone, più cassi integrati, più e più e più. Quindi abbiamo subito ferite profonde, la riduzione di imprese, la cancellazione di imprese manifatturiere sta continuando a ritmo molto elevato, nel primo trimestre di quest'anno se ne sono andate altre 2.700. C'è un paese diviso, molto polarizzato tra realtà che vanno molto bene, imprese che vanno molto bene e imprese che sono lì che arrancano, che faticano, che sono in bilico, con differenze quindi abissali. Questo porta a far sì che ci sia una visione anche diciamo alle volte più ottimistica negli indicatori di fiducia rispetto a quello che è la realtà, anche perché chi è sopravvissuto a questa crisi in un certo qual modo tira il sospiro di sollievo, però appunto ha detto anche il ministro Padoan oggi, la crisi del nostro paese non è veramente finita, insomma siamo, ha detto il presidente Squinzi, non più sull'orlo del baratro, lo dimostra anche la fiducia dei mercati finanziari, ma dobbiamo ancora lavorare molto per riportare la nazione su un sentiero di crescita elevato. Sì, tra poco sentiremo anche la voce di Squinzi. Nel frattempo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio dice: per adesso siamo fiduciosi sulla nostra previsione. Voi oggi avete anche detto che è inopportuna e non serve una manovra correttiva. Però mi chiedo, visto che come dire, le regole di bilancio di Bruxelles prevedono che il calcolo avvenga, il calcolo di deficit e di debito avvenga in un rapporto, appunto il rapporto tra deficit e PIL, il rapporto tra debito e PIL, come sia possibile con questo quadro di crescita non pensare ad un intervento correttivo di bilancio di qualche tipo? Due cose, anzitutto le nostre stime ci danno un deficit PIL quest'anno di 2,9 e l'anno prossimo di 2,5, il secondo dato non tiene conto degli impegni programmatici del governo che tendono a portarlo più in basso. Quindi diciamo in realtà da questo punto di vista del rapporto deficit-PIL non c'è bisogno fare ulteriori manovre, ricordo che il saldo strutturale è un deficit di 0,9, da questo punto di vista abbiamo dal punto di vista diciamo dei saldi di bilancio una delle situazioni migliori dell'area dell'euro, saldo primario elevato eccetera, è quello che l'Europa ci chiede di rientrare più rapidamente nel rapporto debito-PIL. Però se questo significa fare manovre aggiuntive che mettono ancora più in difficoltà il paese, francamente trovo diciamo masochistico e difficile da accettare, per questo dico che non è necessario né opportuno, penso che sia diciamo utile fare in modo che questo paese che ha fatto enormi sacrifici, 100 miliardi di manovre concentrate in poco tempo, abbia la possibilità di digerirle e ricominciare a puntare su un futuro di sviluppo, facendo anche le riforme ovviamente, senza le quali, come ho detto all'inizio, rimaniamo condannati a crescite dal prefisso telefonico. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, e buona serata e buon lavoro naturalmente Luca, ciao. Buonasera a tutti quanti. E poi già si accennava, ci sono anche i commenti a margine. Noto una certa rabbia di qualche ascoltatore che si lascia andare ad insulti non verso di me, no, ma verso il dato che abbiamo fornito e che arriva dalla Corte dei Conti, che parla nel 2013 di un calo della pressione fiscale dello 0,2%. No, non lo posso riferire l'SMS che è arrivato. Chi dice come Carlo ci scrive al 349-238-6666, beati voi che credete in un incremento. E ancora, Un altro ascoltatore: ogni anno si dice che si crescerà il prossimo. Sì, ecco, sul cosiddetto delta, diciamo così, sulla differenza tra le previsioni economiche, in particolare quelle dei governi, e quello che è successo l'anno dopo, si potrebbe aprire un infinito dibattito, perché vengono utilizzate evidentemente anche a fini politici. I commenti a margine, dunque. Il ministro Padoan, lo riferiva poco fa lo stesso Luca Paolazzi, dice: l'Italia e l'Europa hanno affrontato una crisi profonda da cui non siamo ancora definitivamente usciti, ce ne siamo accorti. Dovremmo guardare se il PIL torna ai livelli di prima, ma anche altre cose. Le grandi crisi sono anche momenti di cambiamento di paradigma. Bisogna fare le riforme per resuscitare le potenzialità dell'Italia. Siamo un po' sul filo delle dichiarazioni di rito, mentre invece, appunto, il sottosegretario Delrio dice: per il momento confermiamo le nostre stime. Il presidente di Confindustria Squinzi dice comunque: l'Italia non è più sull'orlo del baratro. I numeri forse sono ancora difficili da accettare, ma oggi le prospettive sono in miglioramento. L'Italia non è più sull'orlo del baratro. L'ossessione dello spread si è diradata, l'euro e con la moneta l'Europa non è più in pericolo di vita. Si è avviato un ciclo politico di riforme che sembra avere finalmente stabilità. Questo non significa che tutti i problemi siano stati risolti, ma almeno sono stati messi punti fermi importanti su cui ricostruire la fiducia e rimuovere la cappa di incertezza che ci opprime da tempo. Ancora sul governo, sulla politica. Dice Confindustria che serve una scossa politica forte, lo dice il centro studi di Confindustria. Così Squinzi, vediamo un attimo. Sul presidente del Consiglio Matteo Renzi: ha coraggio e volontà di decidere. Bisogna anche avere il coraggio di fare interventi che costano: il rilancio delle infrastrutture, la rapida applicazione dell'agenda digitale, il credito d'imposta per la ricerca di durata almeno decennale. Bisogna avere e dare al Paese le giuste priorità. Scegliere è difficile, ma il coraggio e la volontà di decidere non sembrano mancare al nostro Presidente del Consiglio. E ancora Squinzi sulla ripresa, rinviata di altri mesi. La ripresa è rinviata di altri mesi, verso la fine dell'anno. La prospettiva delle riforme in campo, il tornare a parlare di cose concrete da fare, aiuta a ritrovare più in fretta la fiducia. Può rimettere in moto gli investimenti, sbloccare i progetti delle imprese e anticipare e dare più forza alla ripresa. Al microfono della nostra Alessandra Schepisi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio, che dice: per adesso siamo fiduciosi della nostra previsione sul PIL. E poi dice: abbiamo riacceso la speranza. Penso che sia un giudizio assolutamente condivisibile. Siamo fuori, abbiamo riacceso una speranza, abbiamo avviato una serie di riforme strutturali, di semplificazione e di sostegno al sistema italiano, però è chiaro che siamo all'inizio, sono solo pochi mesi, 120 giorni, sapete voi il tempo giusto. Non so. Io credo che ci sia certamente una condivisione dell'orizzonte generale e un incoraggiamento ad andare avanti che noi accogliamo volentieri, e la disponibilità a collaborare per il bene delle famiglie e per creare posti di lavoro, che è la cosa più importante che dobbiamo fare. We'll be right back. passaggi irriferibili sul cambio di paradigma imposto dalla crisi. E poi tante domande sulle riforme, ma si può sapere quali sono le riforme di cui tutti parlate? Scrive Enzo. Sulla situazione economica, altri ascoltatori, qualcuno che ci dice andate a vedere i concordati delle aziende e lo stato dei pagamenti, altro che 60 giorni. Massimo ci dice sono un funzionario commerciale, conosco Toscana, Umbria e Liguria, tutti i giorni è sempre un po' peggio, quanto si potrà resistere? E chi propone di sentire l'astrologa? Quella è una prerogativa di Sebastiano Barisoli, la lasciamo a lui. Poi in genere sui mercati, se non sbaglio. Allora, ancora molti messaggi sul tema della crisi, questa ripresa che non arriva. Ci scrive un ascoltatore, così forse è un po' troppo. Ecco la mia riforma: emigrare all'estero. Andrea, ma di tagli alle spese non ne parla più nessuno, nemmeno voi. Sì, ne parliamo, più che altro attendiamo l'attuazione per parlarne, perché insomma i provvedimenti messi in campo ormai ci sono. Tutto sta a vedere se funzionano. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sei già stato ospite tra l'altro ieri qua di Sebastiano Barisoni. Diritti TV, a quanto pare ci sarebbe un accordo, la scadenza era prevista per mezzanotte, ma insomma, secondo le voci che si stanno raccogliendo in queste ore, insomma, tutto sarebbe andato, tutto sarebbe finito con Sky che si prende il totale delle partite di Serie A per 572 milioni di euro e Mediaset, le 8 big, per 373 milioni di euro. La prima sul satellite e la seconda sul digitale terrestre. Questo mi sembra... Sì, essendo in Italia, come dire, sarei sempre attento e attenderei ancora qualche ora e soprattutto il voto poi dell'assemblea prima di chiudere la partita. In ogni caso ci sarebbe questa soluzione un po' bizantina, per cui alla fine Sky avrebbe tutta la Serie A come oggi, ma attraverso una sublicenza, nel senso che Sky prenderebbe le 8 partite, diciamo le 8 squadre, le partite delle 8 big del campionato sul satellite, Mediaset su digitale terrestre, quindi sulle piattaforme sulle quali già operano, mentre per quanto riguarda le 12 squadre meno importanti dal punto di vista dell'audience, il pacchetto sarebbe formalmente acquisito da Mediaset, che ha presentato l'offerta in busta più alta, ma poi sarebbe rivenduto a Sky, facendo comunque la felicità dei club, perché ci sarebbe un incremento rispetto all'anno precedente, insomma rispetto al contratto precedente, e azzerando l'idea di concorrenza che noi abbiamo normalmente. Sai, la concorrenza in realtà da questo punto di vista è tutelata, nel senso che conservando il mercato dei diritti TV, che poi significa il mercato delle pay TV in Italia, due operatori, si salvaguarda la concorrenza, perché nel momento in cui invece un solo operatore dovesse acquisire tutti i diritti, chiaramente la Lega Calcio avrebbe un solo interlocutore e questo operatore potrebbe fare il prezzo, quindi diciamo che è un mercato un po' particolare. Detto questo, ripeto, l'assemblea tra un po' dovrà votare, ed è una decisione importante non solo per la sopravvivenza di questo bistrattato e decadente calcio italiano, ma anche per gli equilibri del sistema, del mercato, delle pay TV in Italia e aggiungo in Europa, perché la partita che Sky e Mediaset hanno giocato è una partita di sopravvivenza nell'ambito di un risico europeo che vede per esempio Al Jazeera con il suo braccio TV sportivo Bein Sport sempre più presente ad esempio in Francia, con mire sulla Spagna e anche sull'Italia. L'alleanza Al Jazeera Mediaset è sempre all'ordine del giorno, anche ieri è stata confermata dai rappresentanti del Qatar. Quindi, come vedi, insomma, si parla di calcio, ma in realtà si parla di economia pura, di finanza, e questa complessità non so quanto faccia bene poi alla fine alle squadre. Sicuramente rischia di non far bene ai tifosi. Allora io ti chiedo brevemente, Marco, così lo chiariamo anche agli ascoltatori che ce lo chiedono, anche se non sarebbe la missione di questa trasmissione, quindi dove vedranno le partite l'anno prossimo? Beh, e poi dopo la viabilità andiamo sul punto economico. L'anno prossimo non cambia nulla, perché questo è un accordo, riguarda diciamo il triennio 2015-18, però c'è un problema, dopo lo spieghiamo, legato anche alla Champions, insomma, ed è fino a un certo punto, diciamo, non la mission, perché anche qua, insomma, si aumentano i prezzi e i clienti tifosi devono pagare di più, insomma, parliamo sempre di economia domestica, ma sempre di economia parliamo. Allora, hai parlato di calcio disastrato. Io voglio capire da te, anche se il tema in parte lo avete affrontato già ieri con Sebastiano, questi, nel momento nel quale ti entrano questi 940 e passa milioni di euro, che cosa sei in grado di farci? Un ascoltatore ci scrive: a che serve pagare il canone Rai? Però, ragazzi, decidetevi. Allora, o volete che la Rai tagli i costi e quindi ci costi di meno, oppure se volete che la Rai spenda 570 milioni di euro per prendersi i diritti delle partite, ditelo chiaramente. Però a quel punto, insomma, no? No, non ci lamentiamo che ci costa troppo. Allora, Marco Bellinazzo, il vero tema, secondo me, almeno per come la vedo io, questi 945 milioni di euro che entrano nelle tasche, nelle casse delle società di calcio, però se vengono utilizzati per come sono stati utilizzati fino adesso, e in parte, se vogliamo, l'esito del campionato del mondo neanche un risultato, no? Servono a ben poco. Insomma. Sì, anzitutto saranno di più, perché ci sono ancora i diritti, per esempio, esteri da vendere, quindi andremo a una cifra rispetto al miliardo attuale di 1,2 miliardi, quindi insomma un incremento di quasi il 20%, e tocchi un tasto dolente del calcio italiano. Ieri con Sebastiano parlavamo della necessità di un piano industriale del calcio, di una rifondazione che non comporti solo, insomma, cambiare l'allenatore della nazionale, ma cambiare proprio la mentalità del calcio italiano. E allora, finora il calcio italiano ha speso circa il 75%, l'80% dei suoi ricavi in stipendi. La Germania viene spesso qui citata a torto a ragione, insomma, come esempio da seguire o non seguire sul piano economico della gestione dei bilanci e dei conti pubblici. Però in Germania la Bundesliga è riuscita ad avere un campionato bellissimo, con stadi sempre pieni, fattura ormai quasi 2 miliardi di euro all'anno e spende in ingaggi il 50%. Quindi è chiaro che bisogna fare un piano industriale serio, e le tematiche sono tantissime, dagli stadi allo sviluppo delle aree commerciali, agli investimenti, per esempio per conoscere e profilare i propri clienti / tifosi che sono all'estero. Quando parliamo poi di stadi, non ci riferiamo semplicemente al fatto che si debbano costruire nuovi stadi, quindi edilizia per l'edilizia e cattedrali nel deserto, ma degli impianti che aprano a un nuovo modello, a una nuova concezione di calcio, cioè a luoghi in cui le famiglie possano andare, luoghi da sfruttare 24 ore su 24, in cui si possono fare convegni. Ci sono stadi inglesi in cui si fanno i matrimoni, tanto per dire, insomma, c'è la possibilità di creare dei luoghi anche di aggregazione sociale. E sembrerà strano dirlo in Italia, ma le società di calcio sono aziende che, se gestite bene, possono produrre utili, oltre che un ritorno economico per il territorio. E abbiamo nitidi esempi in Europa. L'ultima domanda che ti voglio fare è una cosa che ha incuriosito me personalmente, perché, come dire, sono sempre piuttosto attento alle questioni che riguardano la rete, l'editoria digitale e non solo. Ma è veramente andato a deserto, almeno da quel che ci risulta fino adesso, la parte dell'asta sui diritti web? Sì, è quella più innovativa, aveva una base d'asta di 109 milioni e non è stata presentata nessuna offerta. In parte questo si spiega col fatto che all'interno dei pacchetti principali c'è anche la possibilità di trasmettere diciamo online, no? Ora non facciamo pubblicità a Sky, ma Sky ha alcuni servizi che permettono l'utilizzo, diciamo, online, la visione online dei prodotti. Però la parte più innovativa, la possibilità davvero di godere dello spettacolo del calcio ovunque e attraverso i nuovi mezzi e quelli che verranno nei prossimi anni, evidentemente non è stata ritenuta interessante per gli operatori e non c'è stata nemmeno una proposta. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore per questi chiarimenti. Noi adesso parliamo di scuola. Di scuola, parliamo di formazione, parliamo dei nostri figli e insomma di come possono arrivare nel mondo del lavoro, di come possono guadagnare qualcosa di più, di come possono crescere rispetto al livello di reddito attuale della loro famiglia. Una scuola che, scrive il Censis oggi, è percepita non solo come incapace di attivare un ascensore sociale, ma addirittura come inutile. Al primo impiego solo il 16,4% dei ventenni è salito nella scala sociale rispetto alla famiglia di provenienza. Giuseppe Roma, direttore del Censis, buonasera. Buonasera. Come se lo spiega? Ma me lo spiego perché effettivamente c'è la combinazione di due fattori. Uno è quello della crisi occupazionale, quindi la scarsa domanda nel mercato del lavoro, ma l'altro è che noi abbiamo una scuola e un'università un po' troppo cristallizzata, che non ha proprio percepito tutto quello che stava cambiando e che soprattutto non è riuscita a modernizzarsi anche introducendo quelle innovazioni che consentono in tutti i paesi di avere la scuola come principale strumento democratico, diciamolo francamente, cioè noi non siamo un paese dove quello più bravo, quello che studia di più ha più opportunità di poter vedere anche accrescere la sua condizione sociale, quindi si combinano diverse cose, ovviamente non vogliamo dare la croce solo alla scuola, gli insegnanti hanno un grande senso di abnegazione, però bisogna obiettivamente dirlo perché i dati sono veramente sconfortanti. Ecco, perché... ho trovato, se mi permette, particolarmente sconfortante questo. Il grado di abbandono degli studi, che noi, come dire, in questo paese che su queste cose è un po' disabituato, potremmo anche quasi considerare normale, ma nei paesi un po' più evoluti da questo punto di vista non lo è. Ossia il fatto che abbandonano gli studi oltre un quarto dei figli di persone più svantaggiate economicamente, per così dire, molto più dei figli dei laureati, e che l'abbandonano solo nel 3% dei casi. Sì, è proprio questo che vuol dire abdicare al ruolo della scuola, no? Perché c'è una grande differenziazione per provenienza, è chiaro che il figlio del laureato poi alla fine ha una famiglia, anche un contesto che l'aiuta e che non c'ha invece chi ha una bassa istruzione, anche alla fine un tenore di vita molto più basso. Ora il problema è anche di chi resta, perché questo dell'abbandono, io ho fatto un calcolo su 100 ragazzi che finiscono la scuola dell'obbligo, la scuola media inferiore, alla fine, dopo tutto il percorso, a laurearsi se ne arrivano 18, ma andare alle scuole superiori, quindi alla scuola media e poi all'università, sono molti di più, cioè la scuola è come un acquedotto, cioè questo bene che è la risorsa conoscenza e la risorsa persona che si devono combinare insieme, è come se nel cammino, man mano che si va dalla scuola elementare in su, ci sia una dispersione di più del 50%, quindi non è solo, ci sono questi meccanismi, sono duplici, da una parte discriminazione ancora relativamente alle condizioni di origine della famiglia e quindi si abbandona, eccetera. Ma anche chi resta dentro molto spesso poi finisce per non ottenere il risultato. Quindi è una dissipazione di risorse, perché dobbiamo affrontarne due di temi, non soltanto quello della discriminazione, ma anche quello dell'insuccesso. Quindi è una scuola, io ho fatto un esempio questa mattina, ma possiamo ancora pensare che dire inglese scolastico vuol dire non sapere l'inglese, cioè che la scuola alla fine non riesce a ottenere i risultati per i quali ha un grande commitment pubblico? È da questo che nasce la sfiducia, non soltanto e semplicemente dal fatto che oggi un laureato sostanzialmente ha una occupazione non del livello proprio di chi ha fatto quel numero di anni di istruzione, ma è anche il fatto che cose basilari oggi nella vita moderna, nelle competenze indispensabili, la scuola non riesce a darle. Ma com'è possibile? Sì, che a fin dei conti sono migliori di insegnanti, abbiamo fatto un'altra cosa in un altro studio, la spesa pro capite, cioè per numero di abitanti, è più elevata nel sud che nel centro-nord, mentre i risultati poi che riguardano la conoscenza della matematica e dell'italiano si rovesciano. Quindi c'è un problema di rinnovare il sistema sulla base di una logica di competenze e di risultati che oggi il dato fondamentale, la scuola deve non insegnare genericamente ad essere cittadini, non dare delle cognizioni più o meno del mondo che la scuola ottocentesca, oggi la scuola deve competere con altre agenzie formative che sono i media, che sono la televisione, che sono internet, eccetera, e deve saper inserirsi in questo insieme di cose, deve essere più aperta al territorio, più aperta all'impresa e fare in modo che il ragazzo oggi abbia delle competenze vere. È per questo che poi essere laureato negli altri paesi dà più chance, perché sai di più. Sì, proprio a proposito di questo, e questa mi sembra la risposta perfetta, Ugo che ci scrive da Milano e che ci dice: la scuola non serve per trovare lavoro, serve per formare e istruire un individuo. Ha ragione, serve a formare e istruire un individuo, che però si forma e si istruisce anche in mille altri modi diversi, come per esempio in famiglia. Serve anche per trovare lavoro, cioè avere una maggiore conoscenza, essere più istruiti, essere maggiormente formati, serve evidentemente anche a trovare lavoro, a fare quella scalata sociale che fa sì che i nostri figli molto semplicemente guadagnino di più, lavorino meglio, siano più intelligenti di noi, che alla fine dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Scusate se la dico, insomma, opinione personale. Grazie Giuseppe Roma, direttore del Censis. Molti messaggi ci arrivano sulla scuola. Bello quello di Enrico da Milano, che dice che la scuola dovrebbe servire a formare uomini prima che eruditi. Bene, bene, però serve anche, come dire, a pianificare la propria conoscenza per il futuro lavorativo. C'è chi ci chiede, insomma, dite a Confindustria di chiudere il Censis, forse li confondete con il CNEL, che è statale, il Censis è privato, è una fondazione. Veniamo alla borsa. È una giornata negativa oggi, anche se non di molto, meno 0,39% sul FTSE MIB, meno 0,3% sul FTSE All Share, Parigi in calo di 0,5%, Francoforte dello 0,64%, Londra in lieve rialzo, scusate, più 0,02%. Ciao Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, la mattinata era stata negativa non di moltissimo, meno 0,11%, poi mi sembra di capire dei dati americani che non hanno particolarmente convinto i mercati, no? Sì, sì, diciamo leggermente sotto le attese del mercato. In realtà diciamo, è stata semplicemente una giornata di realizzi. C'era chi si aspettava viceversa un rialzo da parte delle borse, questo perché ieri il PIL americano è andato molto male, peggio delle previsioni, da qui la deduzione che la Banca Centrale Americana non potrà diciamo, asciugare l'enorme liquidità messa in circolazione e quindi in teoria questo doveva favorire le borse. Invece oggi insomma, ci sono stati molti realizzi a Piazza Affari, soprattutto sulle banche popolari e sui titoli finanziari. Eh sì, in effetti la Popolare di Milano giù del 2,25%, Ubibanca del 2,16%, Banco Popolare dell'1,94%, negativa in realtà anche Unicredit, che è proprio una popolare, non è, meno 1,76%, e male ST Microelectronics, meno 2,28%. Sì, ST ha annunciato un bond da $1 miliardo questa mattina e anche un buyback azionario pari al 2,2% del capitale. Un tema, quello del buyback, che comporta quindi diciamo, un acquisto di azioni da parte della società e che inizialmente aveva dato impulso al titolo. Infatti stamattina ST guadagnava oltre l'1%, poi in realtà sono arrivati i realizzi e ha chiuso un ribasso del 2,28%. Tra i titoli in positivo abbiamo Mediaset che guadagna il 2,11%, vabbè, qua ne abbiamo parlato poco fa con Marco Bellinazzo, oggi è stata tutta una giornata all'insegna dell'attesa per l'asta dei diritti TV per le partite di Serie A, ribadiamo la notizia che è insomma di poche ore fa e che in realtà per il momento è solamente un'indiscrezione. Sky avrebbe preso tutte le partite di Serie A per 572 milioni di euro, a Mediaset le 8 big sul digitale terrestre per 373 milioni di euro. È su questo che si è mossa Mediaset, in realtà però in giornata era arrivata a guadagnare ancora di più, Ceo, no? Sì, era arrivata a guadagnare anche il 4%, comunque in una giornata negativa per la borsa chiude con un oltre 2% di guadagni, sicuramente un'ottima performance. Il titolo migliore sul FTSE MIB è però Ferragamo, 3,5% di guadagno. Sì, diciamo che oggi Ferragamo ha sfruttato un giudizio positivo da parte della banca d'affari Credit Suisse, gli analisti sottolineano come il titolo sia andato molto male rispetto diciamo, ai competitor da inizio anno. Da inizio anno Ferragamo ha perso il 22%, il settore del lusso soltanto il 2%, Credit Suisse è inoltre ottimista su quella che diciamo, sarà la marginalità dell'azienda di moda nei prossimi anni e considera diciamo, credibile l'obiettivo di un margine dell'EBITDA del 25% da raggiungere nel 2018. Telecom Italia più 0,27%, in realtà gran parte della seduta era stata negativa, lievemente negativa, no? Sì, alla fine chiude con più 0,3% nel giorno del CDA di Telco, che ha sostanzialmente diciamo, formalizzato la scissione della scatola che controllava ormai Telecom Italia. Senti, nell'ambito dei bancari, Intesa San Paolo, che sono praticamente tutti negativi, Intesa San Paolo se la cava un pochino meglio, era arrivata addirittura a guadagnare in mattinata meno 0,09% in chiusura poi. Ma guarda, non ci sono diciamo, ragioni particolari, forse diciamo, oggi hanno più perso terreno diciamo, gli istituti un po' più piccoli e soprattutto le popolari, lì a guidare a ribasso le popolari è stata soprattutto la Popolare di Milano che ieri aveva perso il 6% e aveva guadagnato il 6% dopo che la Banca d'Italia aveva sostanzialmente diciamo, allentato i requisiti patrimoniali, i requisiti di capitale per la banca. Ti ringrazio, grazie Ceo Condina di Radio Corriere del Sole 24 ore, un quadro degli altri titoli, quelli che non vi abbiamo dato, bene oggi anche Saipem più 1,77, Exor più 1,22, Buzzi Unicem più 1,12, 1% di guadagno per CNH, guadagnano lo 0,8% Finmeccanica da Enel Green Power, Terna lo 0,7, lo 0,6 Mediobanca e Unipol 6, 0,5% di guadagno per World Duty Free, lo 0,4 Pirelli e Tenaris, Telecom Italia abbiamo detto più 0,27%, Atlantia più 0,19%, Mediolanum imperfetto pareggio. In fondo al listino, gran parte ve l'abbiamo detto, ST Microelectronics e le popolari, negative anche Fiat di 1,5%, G-Tech dell'1,15%, Autogrill dell'1,11%, TOTS dello 0,97%, Prismian dello 0,8%, così come SNAM, Popolare Emilia Romagna dello 0,7%, così come Moncler, scende dello 0,6%, IUX di 0,5% a 2A e Eni e Generali, lo 0,38 Enel, Monte dei Paschi lo 0,33, Campari lo 0,16, così come Azimut, lievemente negative. Come avete sentito, Luxottica e Intesa San Paolo. I migliori e peggiori nel complesso nel listino: il migliore Seat pagine gialle, più 6,25%, Risanamento più 4,86, la Popolare di Sondrio il 4,64, BS il 3,66, in fondo Space meno 6,8, Friendly Energy meno 6,7, Mondo TV France meno 5,9, Ceramiche Richetti meno 5,83%. Euro che quota a 1,36 e 11 contro dollaro. Per quanto riguarda lo spread, ci dite, ve lo siete dimenticato? No, non ce lo siamo dimenticato. Lo spread è che siamo sempre più o meno sugli stessi livelli da alcune settimane, intorno ai 160 punti. Oggi siamo a 159, quando ci saranno drammatiche variazioni, certamente ve ne daremo conto. Spostiamo a Ypres, in Belgio, dove si svolge il vertice europeo che dovrebbe tra l'altro scegliere il nuovo presidente della Commissione. C'è una strada semi spianata per Juncker. Perché? Perché in quel luogo? Perché quest'anno, come sapete, ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale. Il conflitto che veramente ha cambiato il volto dell'Europa, forse più della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, il sabato sarà esattamente il centenario dell'attentato di Sarajevo, quello che dette inizio a tutto. E quindi anche per questa commemorazione, per la battaglia di Ypres, dove per la prima volta furono usati di fatto dei gas sui soldati, di cui il nome di Iprite. Ma al di là di questo, la battaglia che si combatte in queste ore è tutta politica, ammesso che ancora di battaglia si possa parlare. Di certo è una battaglia sul patto di stabilità. Beda Romano, del Sole 24 Ore, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, che sta seguendo i lavori. Buonasera, Beda. Buonasera. Allora, abbiamo detto strada semi-spianata per Juncker, forse possiamo dire addirittura spianata. Sì, non si possono evidentemente in Europa mai escludere sorprese, ma ho l'impressione che ormai l'ex premier lussemburghese, capolista del Partito Popolare Europeo alle ultime elezioni, dovrebbe ricevere domani la nomina da parte del Consiglio Europeo per la presidenza della Commissione. C'è ancora incertezza evidentemente perché la Gran Bretagna continua a osteggiare la nomina di Juncker e non si possono escludere ostacoli politici, ostacoli giuridici, tentativi dell'ultimo minuto da parte del premier inglese David Cameron per cercare di bloccare questa nomina. Teoricamente tutto dovrebbe essere deciso. La cosa interessante è che per la prima volta il Consiglio europeo prenderà una decisione di questo tipo a maggioranza e non per consenso. Ok, quindi non ci sarà l'unanimità, per così dire, questo intendi? Esattamente, non ci sarà l'unanimità. La Gran Bretagna probabilmente chiederà un voto formale da parte del Consiglio, cosa che è stata finora evitata a tutti i costi, e quindi in base al voto si capirà che c'è una maggioranza qualificata a favore di Juncker e una minoranza, probabilmente rappresentata dalla Gran Bretagna e possibilmente dall'Ungheria, contraria a questa nomina, ma che è nell'impossibilità di bloccarla. Allora, Beda, ti vorrei portare poi su quello che è il tema centrale, quantomeno per l'Italia. Il Presidente del Consiglio Renzi dice c'è un ok a Juncker, e lo dice uscendo dal vertice del Partito Socialista Europeo e quindi evidentemente facendosi in parte portavoce del suo partito in seno all'Europa. Dice c'è un ok, ma solo con un documento che indichi dove vuole andare l'Europa, come PSE siamo d'accordo su questo. Nel frattempo l'unico documento che più o meno abbiamo in mano o del quale abbiamo una bozza è l'agenda Van Rompuy per questo vertice europeo, no Beda? Sì, ci sono in realtà due documenti dietro a questo vertice europeo. Il primo documento è questo di cui parliamo, che è l'agenda preparata dal Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, ed è una specie di piano strategico per i prossimi 5 anni. L'altro documento sono le conclusioni del vertice che si svolge tra oggi e domani. Il Presidente del Consiglio vuole cercare di trarre il massimo possibile dal suo appoggio per Juncker nel tentativo di riorientare le politiche economiche dell'Unione Europea, e quindi l'Italia sta cercando da un punto di vista diplomatico di agire sui due documenti, sia quindi sull'agenda presentata da Van Rompuy che sulle bozze che chiuderanno il vertice. Nei due casi l'Italia vuole cercare così di imporre una certa flessibilità in più nell'applicazione del patto di stabilità e di crescita. Sì, tra l'altro in questa bozza del vertice europeo, perché in questi giorni sul patto di stabilità abbiamo sentito qualsiasi cosa, nel senso che abbiamo dato conto di quella che ci è sembrata un'apertura da parte di Angela Merkel, abbiamo dato conto delle chiusure del presidente della Bundesbank, come atteso del resto Weidmann, e del ministro Schäuble, abbiamo dato conto anche delle posizioni del vice cancelliere tedesco, che è del Partito Socialista Europeo, che Sigmar Gabriel, che dice sostanzialmente, oggi ha detto Schröder senza un po' più di flessibilità non ce l'avrebbe fatta a fare le riforme che ha fatto. C'è questo elemento interessante, no, che leggiamo nelle bozze che escono sulle agenzie: il consolidamento dei bilanci deve proseguire secondo modalità differenziate e che favoriscano la crescita. Qua non riesco a cogliere, nel senso che è un po' generico, è chiaro che è una bozza, Beda, no? Però riesce a darci anche un'idea un po' più profonda di che cosa si sta pensando? Le alternative sono due in questo momento: i paesi decidono di formalizzare, per così dire, l'esistente, la flessibilità già esistente nel patto e già applicata nel patto in tutti questi anni. Oppure, ed è questa l'intenzione tedesca è quella di accettare la formalizzazione nero su bianco di alcune idee che sono state applicate nel corso degli ultimi 10 anni. Dall'altra parte c'è l'Italia, che invece vuole andare un passo ulteriore e vuole maggiore flessibilità, per certi versi ex ante. L'Italia è preoccupata dal futuro andamento dei suoi conti pubblici ed è preoccupata dall'ipotesi di subire a un certo punto nei prossimi anni una procedura di debito eccessivo, e quindi sta cercando in questo frangente di riorientare la strategia europea per evitare la procedura di debito eccessivo, e mettendo nero su bianco che la situazione economica è cambiata radicalmente rispetto a quando il patto fu scritto 15 anni fa e che quindi le regole vanno applicate con maggiore flessibilità, con ulteriore maggiore flessibilità rispetto a come sono state applicate finora. Allora Beda, io vorrei a questo punto capire da te, secondo naturalmente la tua opinione, che come tutte le previsioni può essere smentita naturalmente dai fatti, dalla tua lettura, tanto di quel che conosci di Bruxelles, tanto quanto per la tua vita precedente di corrispondente a Francoforte, quindi conoscitore del mondo tedesco, quanta possibilità c'è che questa linea italiana abbia corpo, prenda corpo davvero? Ho l'impressione che sia limitata, se proprio devo essere sincero. Ho l'impressione che non vi sia stato da parte della signora Merkel una grande apertura nella sostanza. Sì, è vero, la signora Merkel negli ultimi giorni ha insistito sul fatto che bisogna applicare il patto con flessibilità. E devo dire, può sorprendere evidentemente, ma ho l'impressione che il suo tentativo sia quello di smorzare, di disinnescare la tentazione italiana di introdurre ancor più flessibilità nel patto. La signora Merkel vuole dire ai propri partner europei, all'Italia, ma anche alla Francia e ad altri paesi, che lei è perfettamente d'accordo nell'applicazione del patto con flessibilità, così come è stato fatto finora, non con ulteriore flessibilità. Perfetto, infatti da quel che ho capito, quindi un modo di rimarcare, guardate che la flessibilità nel patto in una certa misura c'è già e quindi non c'è bisogno di rimetterci mano, no? Esattamente, questo mi sembra il punto. Naturalmente noi sappiamo che la Germania ha nei confronti dell'Italia un atteggiamento per certi versi benevolo, di interesse, ma è anche guardinga evidentemente, perché in più di una circostanza l'Italia non ha mantenuto le premesse, non ha rispettato gli impegni e quindi evidentemente l'establishment politico tedesco deve fare attenzione a come accettare le pressioni italiane su questo fronte. Allora, Beda, io ti ringrazio, naturalmente questa è la visione dei tedeschi. Ringrazio Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Grazie a Roberto Scaltriti in regia, Mauro Del Corno in assistenza. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo in realtà lunedì con Effetto Giorno e domani a Focus Economia torna Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.